La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi 45 secondi, sono in diretta dagli studi di Radio 24 di Milano, un saluto e un ringraziamento a chi ci ascolta in diretta o in podcast e l'indirizzo come sempre, anche la trasmissione di oggi come vedrete con l'ospite, il tema che affrontiamo nasce da un'autosegnalazione e quindi scrivete alla versione di Oscar @radio24.it perché il nostro obiettivo è quello di darvi voce con le vostre opinioni, le vostre storie, quello che non capite e così via. Andiamo subito all'argomento del giorno. Questa è una puntata dedicata in particolare, lo faremo spesso perché tenteremo di capire i vari punti di legge di stabilità nel tempo, tanto l'esame parlamentare va avanti fino a dicembre, però oggi ci soffermiamo in particolare su un articolo, cioè l'articolo 47, che è quello che interessa tutto il mondo dell'agricoltura italiana. E perché lo facciamo? Lo facciamo perché il governo ha annunciato con grande forza di rimettere con la legge di stabilità l'agricoltura al centro, quindi chiunque di voi voglia capire come funziona vi spiegheremo delle cose che il governo non aveva detto fino in fondo l'articolo 47. Infatti è già partita una polemica tra Di Battista del Movimento 5 Stelle, tra Di Maio scusatemi del Movimento 5 Stelle e il ministro Martina proprio di ciò di cui parleremo oggi, e quindi telefonateci all'800 24 00 24, per dirci cosa avete capito e se vi ritrovate in quello che vi diremo. Però il governo in sintesi ha messo nelle voci molto positive delle sue scelte di legge di stabilità appunto questo favore finalmente concentrato di nuovo al rilancio del mondo agricolo, perché la sintesi del governo, quella che c'era fin dai primi tweet del Presidente del Consiglio settimane fa, era quella di dire 800 milioni di euro alle imprese agricole, 800 milioni di euro che vengono dalla cancellazione dell'IRAP per 200 milioni e per 400 milioni dell'IMU sui terreni delle imprese agricole. In realtà, come ci hanno segnalato alcuni ascoltatori, e oggi l'ospite è esattamente uno di quelli che ci ha segnalato, andando a vedere poi l'articolo della legge di stabilità, si capisce che è così, ma come sempre poi quando i testi sono complessi, perché a fianco di tutto questo scatta anche un aumento, per così dire, perché mentre detta sinteticamente, ma ora ce lo facciamo spiegare, scende l'imposizione sulle imprese agricole, il rischio, secondo quello che c'è scritto nell'articolo 47, è che possa salire non di poco, ma di moltissimo l'imposizione invece sul reddito delle persone fisiche. Il governo spiega che questo incremento molto forte del reddito personale dai terreni dei redditi agrari e dominicali riguarda non chi è al 100% imprenditore agricolo e quindi si maschera, per così dire, o comunque usa questo argomento per dire non rompeteci le scatole, perché è stato molto brutale la risposta del ministro Martina ai 5 Stelle e a Di Maio che gli ponevano il problema dicendo perché non ci avete avvisato che da una parte tagliate ma dall'altra aumentate l'imposizione sul reddito delle persone fisiche. Allora, però, questa è la sintesi estrema. Per farci spiegare meglio, appunto, abbiamo il nostro ascoltatore Luca Giannozzi, imprenditore agricolo, che ci ha scritto, si è fatto due conti e siccome i conti non gli tornavano ci ha scritto, appunto. Nel frattempo esplodeva anche la polemica politica. Lui ci ha scritto prima. Intanto buon pomeriggio e grazie Luca Giannozzi di essere con noi. Signor Giannino, buonasera. Allora, vediamo un pochino di ricapitolare quello che lei ci ha scritto, perché lei si è fatto i conti e si è trovato, ci spieghi bene in tutte le voci, che cosa è davvero per lei uno sgravio e che cosa invece è un aggravio. Ma sa, io mi sono limitato a prendere la legge di stabilità, a mettermi di fronte al computer con i programmini anche forniti dall'amministrazione comunale, dall'agenzia delle entrate, e ho fatto un calcolo di imposte. Lei dove opera intanto? Io opero in Toscana, ho un'azienda agricola di notevoli dimensioni, quindi il mio caso riguarda un'azienda di una certa dimensione, evidentemente potrebbe non essere utilizzato il mio caso per tutti quanti gli agricoltori, sicuramente vale per me però, ecco. Sì. Ed è un'impresa, quindi, vera, cioè lei non lo fa per passatempo facendo altre cose. No. Io sono anche, fra l'altro siamo anche imprenditori agricoli professionali, siamo IAP, io e mio fratello che siamo i contitolari dell'azienda. facciamo questo mestiere da oltre 30 anni, abbiamo 6 dipendenti, quindi insomma siamo un'impresa. È un'impresa agricola, ecco. Esattamente. Allora, esatto. Si è fatto, ha iniziato a farsi i conti. Sì, e ho visto semplicemente che a fronte dell'abolizione dell'IMU, che è indubbiamente un vantaggio importante, e anzi credo che si debba dare atto comunque al governo, certo, di aver rimesso al centro dell'attenzione l'agricoltura, questo è un dato di fatto inoppugnabile, però il dato di fatto è inoppugnabile, ma i conti nella mia azienda non tornano, perché l'aumento del 30% delle rendite domenicali agrarie supera il beneficio dell'abolizione dell'IRAP e dell'IMU. Perché, spieghiamolo bene a chi è in ascolto e naturalmente non ha molta consuetudine per queste cose, con l'IRAP e l'IMU le imposte che paga la sua impresa scenderanno significativamente, con esattamente, i tagli del... sì, esattamente. Mentre invece l'aumento che del 30% delle rendite del domenicali e del reddito agrario, sì, è quello sulla base in base al quale si calcola poi il suo reddito personale dalle attività. Sì, sì, esattamente, perché le aziende agricole hanno, salvo le società per azioni e qualche altra società di capitali, possono utilizzare il metodo di tassazione catastale in base alle rendite catastali. Credo che il 95% di chi lo fa utilizzi questo metodo. E quindi sono tasse che si pagano a prescindere dal reddito, sostanzialmente. Sono quindi, se vogliamo, anche un fatto agevolativo, soprattutto da un punto di vista burocratico. Però ecco, l'aumento del 30% è... L'aumento del 30%, notevole. Chiariamolo a chi è in ascolto, non era già preannunciato per effetto di un graduale aumento pluriannale stabilito dai governi precedenti Letta e Monti. È deciso da questo governo. Ecco. Il governo Monti aveva stabilito 3 aumenti scaglionati, sì, negli anni, per il 14, per il 15 e per il 16, ma l'aumento per il 16 previsto era del 7%. E qui siamo invece al 30%. Sì, esattamente, la legge di stabilità modifica testualmente la parola 7 è sostituita con la parola 30. Oh. Ecco cosa dice in estrema sintesi la legge di stabilità. Lo dice con grande chiarezza, per così dire. Ecco. Allora, il ministro, mi scusi, perdonate, un colpo di tosse. Il ministro Martina ai 5 Stelle, che hanno l'altro ieri sollevato questo problema, dicendo: sorpresa, cari signori, perché leggendo l'articolo 47 vediamo che l'imposizione in realtà sul reddito di chi svolge attività di imprenditore nel settore agricolo aumenta molto la pretesa fiscale sul reddito della persona fisica, anche se, diamo atto, scende invece per via dei tagli IMU e IRAP sull'impresa agricola in quanto tale. Martina gli ha risposto testualmente a Di Maio: non sai leggere, perché in realtà questo aumento del 30% invece che del 7% per il reddito domenicale e il reddito agrario per calcolare poi l'IRPEF non riguarda gli agricoltori e i coltivatori veri. Ecco, quindi lei, secondo il ministro Martina, non sarebbe un agricoltore e un coltivatore vero. Che cosa risponde al ministro? Ah, rispondo questo, semplicemente che mentre i 2 aumenti proposti da Monti per il 14 e per il 15 si sono concretizzati con un aumento differenziato fra gli agricoltori non professionali e gli agricoltori professionali coltivatori diretti, qui questa legge di stabilità per ora non prevede distinzioni. Quindi in realtà... parrebbe da quello, io devo dire, anch'io ho letto e io mi ritrovo nella sua opinione, non nella, ecco, risposta del ministro, quindi esatto, o la cambiano per così dire, ma per come esatto, oggi esatto. Quel più 30% riguarda tutti, tutti, è vero o no? Tutti, sì, tutti. Lei su questo si è anche confrontato col suo commercialista, col suo professionista che gli cura queste cose qua, cioè, sì, io mi sono confrontato, io anche, diciamo, utilizzo i servizi fiscali di un'organizzazione agricola, sì, di Confagricoltura, a cui aderisco, e per ora la situazione è questa. Ecco, quindi può essere che il governo pizzicato, in questo caso politicamente dai 5 Stelle, ma forse anche da molti che, come il nostro ascoltatore Luca Giannozzi, hanno a quel punto iniziato a mandare mail, eccetera, eccetera, attraverso la bocca del ministro Martina, ci annunci che modificherà in Parlamento questo aumento d'imposta. Però dalla norma della legge di stabilità, così com'è e così come l'ho letta anch'io, perché ormai è ufficiale, l'aumento riguarda tutti, cari ascoltatori, ed è, a mio modestissimo giudizio, una nuova conferma del fatto che le leggi di stabilità bisogna presentarle con i testi, non con i tweet, perché sennò con i tweet si dice solo la cosa che conviene, come è ovvio, ognuno politicamente vendere, ma poi ci sono delle sorpresine. Ne parleremo meglio, lo dico chi è in ascolto e domani avrà la bontà di ascoltarci dalle 10 alle 12, domani ai Conti della Belva con Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Fin da adesso vi preannuncio che quello che è presentato come il più grande taglio fiscale nella storia d'Italia, nella realtà, se voi impilate tutte le cifre della legge di stabilità vera, adesso che ce l'abbiamo a disposizione, dei 23,8 miliardi di dichiarati e annunciati taglio fiscale nella versione ridotta della finanziaria, cioè quella in cui non c'è anche lo più 0,2% di deficit per gli immigrati, questi tagli fiscali il governo li cifra in 23,8 miliardi, tornano le cifre, però se gli levate i 16,8 miliardi della clausola di salvaguardia fiscale, che non è un taglio fiscale per il semplice fatto che non erano tasse che abbiamo pagato nel 2015, scattavano l'anno prossimo, non ci sono, però non è un taglio fiscale, è uno sul futuro, ma su tasse che avrebbero dovuto scattare. Se levate quei 16,8 miliardi, uno. Due, se levate i 5,7 miliardi di maggiori entrate, perché le maggiori entrate nella legge di stabilità, anche se il governo lo vuole ammettere, ci sono, e come in questo caso è una maggiore entrata di IRPEF agricola, e questi 5,9 miliardi sono fatti 2 miliardi dalla voluntary disclosure, 1 miliardo e 100 dai giochi, e il resto ancora non abbiamo riuscito, non siamo riusciti a capire bene da dove, tranne che c'è una fregatura che a me risulta molto amara, ci sono 810 milioni presi dal fondo per la cosiddetta restituzione fiscale ai contribuenti, che come tutti gli anni, tutti i governi, non viene affatto usata per la diminuzione della pressione fiscale, perché il governo la prende come maggiore entrata a copertura di spese. Quello che avanza ancora è coperto da sorprese come questa di cui vi stiamo parlando oggi e su cui ci ha scritto Luca Giannozzi, che sono non dichiarate ma sono nelle pieghe la legge di stabilità. Ci sono questi 5,7 miliardi di maggiori entrate. Se sommate 5,7 miliardi di maggiori entrate e i 16,8 di clausola di salvaguardia che non scatta, la diminuzione reale, le minori imposte sul 2015 sono pari in tutto a 3,9 miliardi, cioè lo 0,25% del PIL. Questi sono i conti veri dal punto di vista fiscale. I conti veri sono 0,25% del PIL, altro che il più grande taglio della storia. Per lei, Giannozzi, questa sorpresa in concreto, mettiamo che le cose restino così e ci sia questo aumento del 30% del reddito dominicale agrario sul suo IRPEF, se il governo le dicesse sì, però noi intanto l'impresa in quanto tale ha molti margini in più del tuo reddito, caro imprenditore agricolo, non sappiamo cosa dire, noi distinguiamo e preferiamo aiutare l'impresa e tu pagherai anche più tasse. Questo argomento, secondo lei, ha una sua forza oppure no? Allora, ha una forza in una logica di un settore dove l'impresa non coincide con la persona fisica o con società semplici riconducibili alle famiglie, come è il settore agricolo. In agricoltura, dove i dati di iscrizione alla Camera di Commercio sono eclatanti, la stragrande maggioranza delle imprese è riconducibile alle persone fisiche, ovviamente si tratta di togliere da una parte e di aggiungere dall'altra. Quindi è una distinzione di lana caprina a quel punto per le piccole imprese. Diciamo di sì, per noi sì, per le imprese agricole, anche di media dimensione come io sono, è una questione di lana caprina. Va bene, allora sia ben chiaro chi è in ascolto, perché vedo già gli sms che arrivano al 3492386666. Noi non stiamo criticando pregiudizialmente, stiamo spiegando cosa c'è scritto nelle norme che riguardano l'agricoltura. La sorpresa è stata di trovare un taglio per il quale essere riconoscenti, come ovvio, perché significa rimettere l'agricoltura al centro, IRAP e IMU sulle imprese agricole, però dall'altra parte c'è una secchissima rivalutazione di aumento della base sulla quale si calcola l'imponibile IRPEF per gli imprenditori agricoli. E riguarda nel testo tutti gli imprenditori agricoli, anche se il governo dice di no, vuol dire che lo dovranno modificare. Allora, intanto un grande grazie a Luca Giannozzi per questa segnalazione. Resti con noi, perché dopo l'interruzione sul traffico stradale abbiamo un altro caso sempre collegato all'IMU agricola. E che ridimostra come lo Stato non abbia contezza dei suoi stessi conti e di una base certa su cui chiedere la riscossione, perché avremo un comune che ci spiega come qualmente da anni lo Stato gli chiede una cifra che non è affatto quella che lui ottiene dall'IMU agricola. Tra un minuto. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, 16:47 primi 39 secondi. Oggi ci occupiamo dell'articolo 47 della legge di stabilità, che una volta letto bene è quello relativo agli sgravi per le imprese agricole, rivela una sorpresina. Sì, gli sgravi ci sono per l'IMU e l'IRAP, però c'è anche un aggravio molto forte con la rivalutazione del 30% e dei coefficienti di reddito dominicale e reddito agrario, sulla base dei quali poi si calcola l'IRPEF personale per gli imprenditori agricoli. E quindi capite bene che, se rimane come nel testo, applicata a tutti gli imprenditori agricoli, questa roba, vista la classe dimensionale molto piccola in media delle imprese agricole italiane, significa prendere da una parte e levare dall'altra. Il governo dice di no, però nel testo per il momento c'è scritto così. E a questo proposito, sempre sull'IMU agricola, sentiamo il caso di un comune che è venuto all'onore delle cronache. Perché? Perché lo Stato gli chiede una cifra, la stabilisce lui, che il comune deve incassare dall'IMU agricola. Tra l'altro è un comune nella fascia pedemontana, cioè di quelle su cui, se vi ricordate, c'è stato tutto il dibattito che in realtà doveva essere esentato, eccetera eccetera, eccetera. Però il comune, lo Stato gli dice: tu devi darmi questa cifra. Il comune dice: ma non è la cifra che io raccolgo, come faccio a darti? Lo Stato non sente ragioni, ed è quindi con noi per illustrarci questo caso il sindaco, il comune in questione è quello di Cormonza, il sindaco è Luciano Patat, che ringraziamo di essere con noi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Come nasce questa storia, di che cifre si tratta e come fa lo Stato a dirvi: mi dai questo e basta? Ecco, diciamo, il nostro caso è abbastanza emblematico. Lo Stato ci ha comunicato che per l'IMU agricola 2014 avremmo dovuto versargli 185.000 euro. Siccome però noi siamo in zona di comunità montana, quindi le aziende agricole sono esentate dal pagamento di questa tassa, esatto, ci dice sempre lo Stato: vi riduco questa cifra iniziale di 50.000 euro. Sostanzialmente voi ci dovete 135.000 euro per l'IMU agricola 2014. Sì. Anzi, 10 giorni fa ci comunicano che questa cifra è aumentata di ulteriori 8.000 euro, per cui quindi diventano 143.000 euro. Ma voi quanti ne avete raccolti? Eccolo, noi ne abbiamo raccolti poco più di 80.000. Sostanzialmente, quindi, noi per l'IMU agricola 2014 dobbiamo versare allo Stato 60.000 euro in più che non abbiamo raccolto. Ma ci spieghi, un secondo. Nei rapporti su queste compartecipazioni d'imposta, nelle quali una parte va allo Stato e una parte va invece alle autonomie, è lo Stato a decidere unilateralmente e asimmetricamente qual è la parte che gli va versata, ignorando in realtà gli incassi reali? Perché questa è una semplice comunicazione che ci viene data: noi dobbiamo versare questa cifra, anche se non l'abbiamo raccolta. Questo è, a mio avviso, è un modo per dire che lo Stato preleva direttamente dalle casse dei comuni. Ma mi scusi, la norma funziona sulla base che lo Stato sa meglio di voi l'imponibile e le imposte versate dalle imprese e vi accusa implicitamente di collusione con gli evasori? È questa? Letta in questo modo potrebbe essere così, solo che noi non riusciamo a capire, lo abbiamo anche richiesto, sì, in base a quali calcoli e ragionamenti lo Stato, ecco, ci dice che dobbiamo pagare questo. E non vi hanno non risposto. Abbiamo ancora mai avuto risposta su questa cosa. E quindi noi non sappiamo in base a quali criteri lo Stato ci ponga questi obiettivi. Sta di fatto che quest'anno rimetteremo 60.000, per il 2015 ne rimetteremo altrettanti, e quindi in 2 anni il comune di Cormon sborserà 120.000 euro per tasse che non ha raccolto dai propri cittadini. Quindi, io naturalmente, sindaco, mi scuso con lei perché ho fatto una risata ironica, in realtà è una risata molto amara, perché io mi metto nei panni degli amministratori locali, che sono quelli poi ai quali i cittadini chiedono il conto immediato di come vanno le cose, gli interventi sulle strade e così via, eccetera eccetera. Lo Stato si comporta con gli amministratori come ci spiega il sindaco di Cormons, e non è un'eccezione, è la regola. Come sentite, cari ascoltatori, è lo Stato che decide quanto, non è che e se uno gli risponde come l'amministrazione Cormons ha fatto, no, guardate, noi abbiamo tutti i conti e la vostra pretesa è infondata, lo Stato non risponde e bisogna dargliela, punto, finisce così. Questo è uno dei motivi per cui immagino che l'amministrazione Cormons, come non può stamparsi i soldi con quei 120.000 euro che ci rimette in due anni, farà cose equivalenti in meno per i suoi cittadini, come è evidente, no? Ma se mi permette, io aggiungerei un altro concetto. Non è che noi versiamo lo Stato, è lo Stato che si trattiene nei trasferimenti, quindi diciamo non possiamo nemmeno decidere che non ve li versiamo questi soldi, ce li trattengono alla fonte. Anche perché poi, voglio dire, tanto lo Stato si è preso tutta la tesoreria, quindi da questo punto di vista fa quello che vuole, ha le chiavi in mano dei conti, per così dire. Le chiavi in mano del cassetto del comune. Allora, cari ascoltatori, rifletteteci bene, perché queste poi sono le norme eterne di questo Stato italiano, finché non le cambiamo. Voi direte che io sono fissato, però così non si va da nessuna parte, perché un sindaco può essere virtuoso con la sua amministrazione quanto volete, ma se poi sulla testa c'è uno Stato che gli dice tu ci dai X di più di quello che ci devi e ce lo dai perché io me lo prendo, capite che lo Stato, scusate se torno sul mio slogan, è ladro, e di fatto a Cormons e in tanti altri comuni, come avete sentito, è ladro tecnicamente e fattualmente, e ci rimettono i cittadini di queste città qui, prima di dare la colpa solo agli amministratori locali che non sono funzionali di qua di là. Ragioniamo sul fatto che queste sono le regole contabili del nostro paese. Allora sentiamo Alberto da Brescia, che invece, dopo aver sentito il nostro Giannotti che ci ha scritto su questa sorpresa della legge di stabilità, che pensa. Alberto, prego. Buonasera Oscar, sono un piccolo imprenditore con una trentina di dipendenti in quel di Brescia. Ho degli amici nella zona al sud del Garda che fanno vino, dai quali io compro, e loro invece sono una SRL, quindi pagano sul reddito d'impresa. Sì, esatto. Io non conosco il mondo agricolo, quindi mi domando quale sia il vantaggio, diciamo così, perché un vantaggio probabilmente ci dovrà essere nel pagare una tassazione con li ha chiamati redditi dominicali, se non sbaglio. In realtà nasce nella storia come un vantaggio per le imprese piccole, quindi con una tassazione che non voglio dire che fosse flat, però insomma così era, per consentire all'imprenditore di mettere più soldi nella propria microimpresa. Con questa botta verso l'alto si toglie questo vantaggio all'impresa piccola, se questa è la tua curiosità, e noi speriamo solo che il governo ascolti e davvero la levi ai piccoli agricoltori, perché altrimenti è un controsenso levare IMU e IRAP e poi dargli una sberla sul reddito personale, perché in realtà le cose non sono così facilmente distinguibili nella microimpresa italiana. Appuntamento domani dalle 10 alle 12 per parlare di tante altre cose, delle banche italiane che rischiano, sono 13, e di che cosa vuol dire comprare titoli pubblici se il rendimento è negativo. Domani dalle 10 alle 12, appuntamento con i conti della Belva, continuate anche adesso su Radio 24.